Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Primo appuntamento di maggio con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti. Allora, parliamo di spesa, di spesa proprio quella settimanale o quotidiana, insomma, che si fa in famiglia, generalmente appunto di prodotti alimentari. I dati che l'Istat ha diramato alcuni giorni fa fotografano una situazione che conferma proprio lo stato della crisi e anche il cambiamento delle abitudini. Cosa è emerso? Sì, un'indagine e un dato che questa volta a commentarlo è stato il presidente dell'Istat, ma che ha sempre anche avvalorato quelli che sono un po' i risultati dei nostri studi, che comunque ha sempre voluto monitorare un pochino come le famiglie, quali strategie le famiglie adottano per cercare di arrivare a fine mese. E in questo caso è emerso proprio da questa indagine dell'Istat che il 61% delle persone, delle famiglie che sono state intervistate, quindi 6 su 10 sostanzialmente, ha ammesso di rivolgere le proprie attenzioni ai propri acquisti nei discount rispetto ad altre catene alimentari. Discount che andavano così un po' di moda qualche anno fa, perché così è un modo per risparmiare, ma in anni più floridi di questi adesso invece sono diventati un'abitudine. Sì, un'abitudine, anche perché i discount sono gli unici che in questa fase di crisi comunque hanno offerto e offrono delle opportunità di risparmio maggiore rispetto ad altre catene di grossa e media distribuzione. Certo, chi ne fa le spese in questa situazione è il mini market, però è anche vero che il discount, il consumatore deve sapere che normalmente trova magari meno offerta, però acquistando i prodotti della catena oppure accontentandosi a quelle che sono un po' la varietà dei prodotti proposti, che sono certamente più limitati, ma ha l'opportunità certamente di risparmiare. E questo è un dato che va a dimostrare come in una precedente indagine che l'Adico aveva fatto un po' di tempo fa, in cui avevamo chiesto alle persone quale strategia adottano per arrivare a fine mese, era proprio emerso un risultato evidente come le famiglie oggi cercano di inseguire sempre di più i prodotti in offerta e si rivolgono sempre più frequentemente ai discount. Credo sia anche cambiata la modalità di fare la spesa. Magari qualche tempo fa si compravano quantità di cose che magari non servivano, col rischio magari di buttarle via perché andavano a male. Adesso si controlla anche questo, no? Si controlla anche questo e si cerca anche sempre con più attenzione di recuperare quelli che sono i prodotti di scarto, anche ingegnandosi in nuove ricette o come qualche volta qualcuno ci ha detto, in nuove polpette tra virgolette, perché comunque sempre più attenzione c'è sulla quantità, ma anche sempre più attenzione c'è sulla possibilità appunto di limitare gli sprechi e cercare di riciclare tutto. Sappiamo che i discount sono un'ottima alternativa di risparmio, ma sappiamo anche che tra le varie strategie sempre più persone ormai cercano di organizzare anche un proprio orticello nel proprio poggiolo, nel proprio giardino, perché comunque sappiamo che anche i prodotti di frutta e verdura comunque hanno un loro particolare peso economico nelle abitudini e a tavola delle famiglie. Ecco, in questi dati che ha presentato il presidente dell'Istat Giovannini, che tu citavi, mi pare di aver colto che ci siano anche dei segnali positivi. A questo aggiungiamo, è proprio delle ultime ore, il taglio dei tassi di interesse della BCE, che l'ha portato minimo storico allo 0,50%. Questo riguarda evidentemente la questione mutui, ma per quanto riguarda la spesa, cosa dice ancora l'Istat? Beh, innanzitutto c'è da dire che se anche c'è un cauto, ma dico proprio cauto, e noi anche sinceramente contestiamo un po' questo cauto ottimismo da parte dei consumatori su quella che può essere una fiducia, certamente in questa indagine emerge un altro dato importante, come il 71% delle famiglie meno ambienti ha dichiarato sostanzialmente che per far quadrare i conti ha modificato le proprie abitudini a tavola. Ma attenzione, non si tratta solo di cambiare le abitudini a tavola mangiando meno carne o meno pesce, ma c'è anche il fatto come le persone, per esempio, questa è una denuncia che noi abbiamo sempre sostenuto da un sacco di tempo, le persone si stanno curando sempre meno e soprattutto stanno rinunciando alla prevenzione, in primis i dentisti, gli oculisti e poi quello che sono le normali visite, che pensiamo soprattutto alle donne, le mammografie o gli uomini che hanno altri tipi di esami, soprattutto a certa età, stanno facendo sempre meno proprio per contenere quelli che sono i costi della sanità e quella che è la minore disponibilità che le famiglie hanno. Eh sì, questo dell'aspetto sanitario è un tema di cui magari parleremo in un'altra occasione. A tuo parere, dal sentore che hai tu, questa tendenza del far la spesa in modo diverso rimarrà oppure addirittura potrebbe peggiorare? Beh, bisogna dire che oggi ci sono varie proposte e varie possibilità che il consumatore ha per cercare di risparmiare. Abbiamo le fattorie aperte, abbiamo la spesa a chilometri zero, abbiamo i mercati rionali, abbiamo i prodotti in offerta che ci sono sui ipermercati, abbiamo i discount, però dobbiamo anche dire che a mio avviso, se qualcuno mi chiedesse qual è il futuro della spesa e quali sono le strategie che potrebbero dare più significato al risparmio della spesa del consumatore, secondo noi il futuro è arrivare a creare dei supermercati dove la merce è sciolta e come sulla verdura il consumatore può prendere quello che vuole, pesarselo e pagare, perché crediamo che siamo convinti che le confezioni, la pubblicità e poi quello che sono anche i premi, i regali che ci sono dentro queste confezioni, che a volte inducono i bambini a convincere i genitori a comprare un prodotto anziché un altro, arrivando a comprare in maniera sciolta e quello che è necessario, si salvaguarda l'ambiente, si spreca meno, ma soprattutto si potrebbe risparmiare molto molto di più rispetto a quelli che oggi ci sono dei prezzi che sono sostanzialmente anche imposti dalle case. E allora torneremo a parlarne tra qualche tempo, vedremo quale sarà l'andamento del prossimo periodo. Grazie intanto all'Adico, al presidente Carlo Garofolini, appuntamento la settimana prossima. Grazie a te Mirko e un saluto sempre a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.